Questa iniziativa europea invece fu immediatamente percepita a Bonn, allora capitale della Repubblica Federale, e in Italia come un'occasione di redenzione. Italia e Germania dunque accolgono subito la proposta francese. Insieme a Robert Schuman, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer diventano così i veri artefici della prima integrazione europea. Ecco, ma che cosa hanno in comune in realtà questi tre leader in apparenza così diversi? Cosa avevano in comune questi personaggi? Avevano in comune di essere dei politici cattolici, degli esponenti di partiti democristiani, la CDU in Germania, la Democrazia Cristiana in Italia, l'MRP, il Movimento Repubblicano Popolare, in Francia. Erano esponenti di partiti che non si sentivano legati, proprio per le loro origini, per la loro ideologia, alla storia dell'Europa delle grandi potenze. Con la storia della nascita dell'Europa Unita riprendiamo dopo la pubblicità. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro, vai su aruba.it. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la difficile strada che ha portato all'Europa Unita. La prima proposta politica concreta viene dalla Francia e viene accettata con entusiasmo dall'Italia e dalla Germania. Ma che cosa unisce Schuman, De Gasperi e Adenauer, oltre alla provenienza cattolica? Ascoltiamo ancora Sergio Romano, Giovanni Sabatucci e Luciana Castellina. Un'altra singolare caratteristica accomuna questi tre leader europei. Sia Adenauer che Schuman e De Gasperi sono nati in aree particolari. Schuman è un lorenese, Adenauer è renano, De Gasperi trentino. Questi tre personaggi di frontiera, quando si incontravano, si capivano. Si capivano con il tedesco, naturalmente, ma credo si capissero anche e soprattutto perché avevano una stessa mentalità e una stessa cultura. Perché avevano tutti e tre appartenuto ad aree di confine, cioè a zone in cui paradossalmente vi sono sempre due fattori contraddittori. Da un lato i contrasti nazionali, molto forti, il confine è sempre il luogo in cui i contrasti si concentrano, ma anche la comprensione reciproca, perché non si vive sul confine senza capire l'altro, altrimenti si rischia di non vivere. Adenauer e De Gasperi accettano con entusiasmo la proposta francese. La velocità degli avvenimenti successivi ha dello sbalorditivo. Il 3 giugno, Francia, Italia, Germania, Olanda, Lussemburgo e Belgio sottoscrivono la dichiarazione di Schuman. Il 20 giugno si aprono i negoziati a 6. Li presiede Jean Monnet. Sono passati solo 41 giorni dalla dichiarazione di Schuman. Il 18 aprile 1951 a Parigi i sei paesi fondatori firmano il trattato che fa nascere la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, un'organizzazione davvero unica. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si dà anche una struttura istituzionale. Esiste un Consiglio dei Ministri, un'assemblea nominata espressione dei governi ed esiste anche un'alta autorità che è sì designata dai governi, ma non è l'emanazione diretta e ha un potere proprio, autonomo, tecnico, sovranazionale. La nascita del primo nucleo comunitario, come abbiamo visto, è rapidissima. È la corsa verso una vera unificazione dell'Europa, non si ferma alla CECA. L'obiettivo, infatti, si fa ancora più ambizioso. Adesso si tratta di creare un organismo politico veramente unitario. Ma volere un'Europa forte e unita non sono soltanto gli europei. Nello scenario della guerra fredda l'Europa unita diventa un'esigenza anche degli americani. Mix

Finalmente il 25 marzo del 57 i plenipotenziari di Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda firmano a Roma, nella sala degli Orazi e Curianzi in Campidoglio, il trattato che fa nascere la Comunità Economica Europea. Per la prima volta una nuova pagina della storia è trasmessa in diretta eurovisiva dai ripetitori della RAI. Racconta quello storico momento Pasquale Antonio Baldocci, della delegazione italiana ai Trattati di Roma, e poi ancora Sergio Romano, Luciana Castellina e Pier Virgilio D'Astoli. Il 25 marzo del 1957 il tempo era coperto e pioveva e c'erano parecchi sostenitori del movimento europeo, tutti i membri del Partito Federalista, i quali sostavano qui sotto gli ombrelli per vedere arrivare i primi ministri e i ministri degli esteri. Nonostante il tempo imbronciato, piove da 24 ore. Il Trattato di Roma fa nascere il mercato comune, all'interno del quale i beni, cioè i prodotti, le persone, i servizi e i capitali potessero circolare liberamente. Una estensione di quello che già era stato realizzato con la comunità del carbone e dell'acciaio. La parola comunità viene inserita da chi pensa che possa essere anche una comunità politica, culturale, sociale, eccetera. Pensando che dall'economia poi sarebbe venuto lo stimolo, sarebbe venuto il trascinamento per realizzare invece anche una unità politica. La successione unica delle sue strade, piazze, chiese, monumenti, giardini accoglie oggi i rappresentanti diplomatici convenuti per la firma dei trattati che istituiscono il mercato comune europeo e l'Euratom. E il secondo trattato che fu firmato a Roma era quello relativo all'energia nucleare di tipo civile. In quel momento, cioè nel 1957, si riteneva che l'energia nucleare sarebbe stata l'energia del futuro. Così non è stato, quindi il trattato che ha avuto una influenza sulla storia dell'Europa e direi anche in generale sulla storia del mondo è stato il trattato del mercato comune, da cui è nato tutto il processo che ci ha portato poi all'Unione Europea di oggi. Noi giovani, anzi giovanissimi, dicevamo stiamo veramente assistendo a un avvenimento storico di grandissima importanza. Ecco, in questo momento i rappresentanti, vedete Adenauer, vedete Segni. La giornata era cominciata al Palazzo Chigi, io fui accompagnato da un'automobile di servizio con a bordo una valigia per custodire i due trattati e una cartella più piccola con i pieni poteri. E questo fu molto importante perché il Ministero si dimenticò di darmi l'invito per partecipare alla cerimonia e arrivato all'ingresso fui fermato dalle autorità di polizia e mi richiesero questo biglietto che io non avevo. Mostrai il tesserino del ministero ma mi dissero che non era sufficiente e che quindi non sarei potuto entrare. E risposi che se non fossi entrato i trattati non sarebbero stati firmati. E allora di fronte allo stupore delle guardie aprì la cartella che conteneva questi pieni poteri. Quando le guardie videro queste carte così belle capirono che la mia presenza sarebbe stata indispensabile e mi fecero entrare dicendomi però noi non abbiamo visto nulla, entri e faccia finta di nulla. Potete scorgere anche Segni, Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri italiano Martino, subito dopo di lui il signor Beck, lussemburghese, ecco al centro Segni adesso. Tra tutti certamente la personalità che colpiva di più per la sua imponenza e per il ruolo storico che aveva svolto era Adenauer. Spaak era un signore abbastanza anziano, corpulento, ma Adenauer lo era di più, credo che avesse circa 80 anni ed erano stati questi due personaggi tra i padri fondatori. Gli altri due erano De Gasperi, che era deceduto, e Schumann, Robert Schumann, che per ragioni a me ignote non era presente. Non era presente neppure colui dal quale partì tutta l'iniziativa, Jean Monnet. Era vivo ancora, morì molti anni dopo, ma questi due grandi assenti creavano un certo vuoto, o una, come si dice ora, un'assenza stridente. Siamo al cuore della cerimonia, si procederà infatti adesso alla sigla dei trattati che istituiscono la Comunità il mercato europeo e la comunità autonoma. Firma adesso il ministro belga Spaak, firma adesso il ministro degli affari esteri francese, signor Pinault, e la volta adesso del cancelliere tedesco Adenauer, la firma del ministro degli esteri italiano Gaetano Martino. Ma il racconto di quella storica giornata ha in serbo ancora una sorpresa, una piccola rivelazione che per la prima volta Pasquale Antonio Baldocci racconta. Quel giorno, infatti, Baldocci ebbe un compito molto particolare: sottrarre ai giornalisti la visione del trattato appena firmato. Ero preoccupato per il ruolo che dovevo svolgere, che era un ruolo piuttosto imprevisto, inatteso e piuttosto sorprendente, ed era quello di sottrarre alla stampa e ai giornalisti gli originali firmati, perché contenevano dei protocolli allegati che non erano scritti e che erano stati firmati in bianco dai 12 plenipotenziari. I due trattati erano disposti al centro del tavolo, dopodiché i giornalisti allungarono un po' le mani per vedere il resto. Io gli dissi: no, siccome siamo lo Stato depositario e questi documenti hanno ancora una certa riservatezza, io l'incarico di portarli subito e depositarli nell'archivio del Ministero degli Esteri. Non ci fu nessuna insistenza, io richiusi i due volumi, li collocai in questa grossa valigia di cuoio, scesi rapidamente lo scalone e giù c'era un'automobile del Ministero, la stessa con la quale ero venuto, e misero a bordo questi, la grande valigia e la cartella, e ce ne andammo, e andando via io mi rivolsi a Marco Aurelio e ebbi l'impressione, da quel suo viso da filosofo e da pensatore, ma in fondo ora guardando bene mi accorgo che c'è un leggero sorriso. Ebbi l'impressione che con quel suo gesto quasi di saluto e mi dicesse che l'opera era stata compiuta, ma che era strano come in tempi così diversi in cui egli aveva regnato sull'impero romano si dovesse ricorrere a dei sotterfugi di questo genere per impedire che alcune cose non del tutto ortodosse venissero scoperte da chi è incaricato di diffondere le notizie, cioè dalla stampa e dalla televisione. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.